Episodio 9. 16-17. Ascolta l'intervista. Allora, Davide Di Pietro, coordinatore degli scambi internazionali per il volontariato dell'Associazione Lunaria. Innanzitutto grazie per esserti prestato a questa intervista e ovviamente la prima domanda che io vorrei farti è questa: che cos'è l'Associazione Lunaria? A me personalmente il nome mi fa pensare alla Luna, quindi anche a qualcosa che guardiamo con aria di sogno, con voglia di qualcosa d'altro. È così? Ed è esattamente così. Lunaria nasce nel 1992 ad opera di alcuni visionari, se vogliamo, che appunto pensavano ci potesse essere ancora spazio per migliorare le cose. E noi ci occupiamo di diverse cose. Fra le nostre attività c'è quella della promozione del volontariato internazionale, che noi realizziamo attraverso uno strumento che ci è proprio, che è quello dei campi di lavoro. E che cos'è un campo di lavoro? Soprattutto che cosa si fa in un campo di lavoro e con quale scopo? Un campo di lavoro, io aggiungerei internazionale, è un'attività che dura dalle 2 alle 3 settimane e che coinvolge un numero di volontari che vengono da tutti i paesi del mondo, un numero di circa 10-15 volontari che vengono da tutti i paesi del mondo. Quindi un'attività di gruppo. Precisamente. E di solito si viene ospitati da una comunità locale e per tutto questo periodo si intraprendono delle attività a carattere ambientale, sociale, culturale, che sono poi di beneficio per tutta quanta la comunità locale. Benissimo. Davide, qualcos'altro di più generale, al di là delle attività dell'associazione a cui tu partecipi? E negli ultimi anni l'associazionismo, il volontariato, il cosiddetto terzo settore hanno avuto uno sviluppo notevole in Italia. Quale pensi che sia e sarà il futuro di questo mondo e perché questo è accaduto? Che un fenomeno che appare anche contrastivo rispetto all'individualismo imperante. Che cos'è che fa che la gente si impegni e dia delle energie per un interesse collettivo? Beh, secondo me gente che si è impegnata per l'interesse collettivo c'è sempre stata anche nel passato, però quello che io penso, e penso che tu abbia ragione, diciamo, nella breve analisi che hai delineato, è che sono un po' cambiate le forme dell'impegno collettivo delle persone. Laddove prima ci si era militanti nei partiti politici piuttosto che nei sindacati, nei movimenti, eccetera, adesso diciamo questo, l'impegno che resta e quindi l'attenzione verso le altre persone, il voler fare qualche cosa per gli altri che resta comunque genuino e valido, ha assunto delle forme differenti e soprattutto quelle del volersi impegnare in prima persona in maniera concreta, quindi facendo delle attività di volontariato, per gli altri, ma anche io direi con gli altri, nel senso che poi in questo momento effettivamente tu parlavi giustamente dell'individualismo imperante, c'è in realtà sotto sotto un bisogno di socialità molto, molto importante, molto grande. E io penso che questo è il tipo di attività che proponiamo noi, naturalmente insieme a moltissime altre associazioni, soddisfi un po' questo bisogno.